Quella notte Colin dormì profondamente, senza interruzioni, e quando si svegliò la mattina seguente si trovò a sorridere, perché era contento di essersi svegliato. Si stirò pigramente come un gatto davanti al fuoco. Gli sembrava di rompere dei legamenti che gli avevano tenuto strette le membra per tanto tempo. Il dottor Craven gli avrebbe detto che erano proprio i suoi nervi che cominciavano ad andare a posto. Di solito, quando si svegliava, era scontento. Avrebbe preferito continuare a dormire, non c'era niente né di piacevole né di nuovo ad aspettarlo nella giornata che si profilava uguale a tutte le altre, grigia, triste e solitaria. Adesso invece la sua mente era piena di piani e di progetti, di Mary e di Deacon. Adesso c'erano i fiori da scegliere nei libri per poi comprare le sementi e seminarle nel giardino, aspettare che spuntassero le prime foglie e poi veder sbocciare i fiori. C'erano le bestiole di Deacon da conoscere. Stava lì, pensando a queste cose da una decina di minuti, quando sentì correre nel corridoio e subito dopo Mary entrò accaldata per la corsa, trascinandosi dietro una fresca folata piena di profumo dell'aria mattutina. «Sei già stata fuori, lo sento da questo profumo di piante che hai portato qui dentro». Lei aveva corso parecchio nel giardino e nei viali e i suoi capelli ricadevano sulla fronte in ciocche spettinate e ariose. Le sue guance avevano un tenue color di rosa e i suoi occhi brillavano. «Vedessi che meraviglia!» esclamò ancora ansando un po'. «Non si può immaginare quanto sia bello! Sai, è arrivata! Stavolta è proprio arrivata! Credevo che fosse arrivata l'altra mattina, ma oggi ho capito che quello era solo un annuncio. Oggi, invece, è proprio, proprio arrivata!» «Davvero?» chiese Colin sedendosi sul letto. «Mary, apri la finestra, forse potremo sentire anche da qui i suoi campanellini d'argento». Mentre ridevano tutti e due, Mary aprì la finestra e la stanza fu invasa da un'ondata di aria fresca e profumata e dal canto degli uccelli. «Ah, senti com'è bella quest'aria!» esclamò con enfasi Mary. «Stenditi sul cuscino e respira profondamente. Giù, manda l'aria giù, fino in fondo ai polmoni. Deacon fa così quando per riposarsi e riprendere forze si stende per terra sotto un albero. Dice che l'ossigeno va nelle vene, rinforza il sangue, lo fa circolare meglio e lui si sente ricaricare di energia e di gioia di vivere. Respira profondo, così, così». Ripeteva le parole di Deacon. Colin le ascoltava e cercava di respirare più profondamente che poteva. Non era abituato a farlo e le prime volte non riusciva a trattenere l'aria e a spingerla verso la punta bassa dei polmoni, ma poi, quando riuscì a inspirare più profondamente, sentì una sensazione nuova e assai gradevole. Provò e provò ancora e si sentiva sempre meglio. Mary, intanto, gli raccontava. «Sai, ci sono ancora novità. Il velo verde è avanzato nella sua marcia verso il giardino. Ormai il grigio sta per sparire. Sono arrivati dei nuovi uccellini, ma non so se troveranno posto. Ci sono già tanti nidi finiti, o quasi, con i loro proprietari che fanno buona guardia e cacciano gli intrusi. Sono spuntate delle primule ai piedi di qualche albero nel viale grande e Deacon pensa, ha portato anche un agnellino appena nato, oltre a Cap e Fuli». Quell'agnellino l'aveva trovato 3 giorni prima, che belava vicino alla madre morta, accanto a un cespuglio di ginestre e su uno spuntone di roccia nella brughiera. Non era la prima volta che gli succedeva un caso del genere, perciò sapeva cosa fare. Aveva avvolto il piccolo nella sua giacca, l'aveva portato a casa e messo vicino al focolare, gli aveva dato da bere del buon latte tiepido, togliendolo alla sua razione. Era piccolo piccolo e tenero, con un musino meravigliato e delle gambe troppo lunghe, sproporzionate al suo corpicino e ancora troppo deboli per sorreggerlo. Deacon l'aveva portato in braccio perché voleva che Mary lo vedesse. In una tasca della sua giacca, oltre a uno scoiattolo, c'era anche una bottiglietta di latte. Mary si era seduta all'ombra di un albero e Deacon le aveva messo l'agnellino sulle ginocchia. Ah, sentire quel fragile calore raggomitolato accanto a lei le dava una sensazione di gioia da non potersi esprimere a parole. Un agnellino vivo che stava in braccio a lei come fosse un bambino. Cercava di spiegare a Colin la meraviglia di quella sensazione e lui l'ascoltava respirando a pieni polmoni quando entrò l'infermiera. Rimase a guardare la finestra aperta. Di solito Colin non le lasciava nemmeno d'estate piena aprire i vetri per aereare la stanza quando lui era lì. Si spostava sempre nell'altro salottino per non sentire l'aria fresca. Non senti un po' di freddo, Colin? No, rispose. Sto imparando a respirare profondo. Fa bene. Fra poco mi alzerò. Voglio fare colazione seduto sul divano e mia cugina farà colazione con me. L'infermiera uscì per andare a dare gli ordini per la colazione dei due ragazzi. In cucina non si faceva altro che parlare del castigamatti che finalmente era arrivato per Colin. Nessuno poteva soffrire quel ragazzino capriccioso e il maggiordomo, che era padre di molti figli, diceva che l'unica cura di cui Colin avesse bisogno era una dose giornaliera di scapaccioni. Quando l'infermiera tornò in camera con il vassoio, Colin le disse con l'aria da ragia: «Stamattina verrà qui un ragazzo con una volpe, un corvo, due scoiattoli e un agnellino appena nato. Fatelo passare subito da me, non trattenetelo giù e non vi venga in mente di trattenere giù le bestie. Le voglio vedere qui». «Va bene, come vuoi. Anzi, è meglio dire a Marta di aspettarli giù e di accompagnarli qui. Il ragazzo è un suo fratello, si chiama Deacon ed è un incantatore di animali. Speriamo che nessuna di quelle bestie ti faccia del male». «Ho detto che è un incantatore di animali. E quando mai gli animali addomesticati mordono?» la rimbeccò Colin con sufficienza. «Dammi la vestaglia». «In India gli incantatori di serpenti si mettono tranquillamente in bocca le teste dei loro rettili», disse Mary. «Gesù Maria!» rabbrividì la donna. La colazione fu servita sul tavolo accanto alla finestra. C'era un sacco di cose buone da mangiare: brioche freschissime, fette croccanti, burro, miele, marmellata d'arance, di more, di ribes, uova da bere, budino di cioccolata, tè, panna montata, porridge, fiocchi d'avena abbrustoliti nel burro e zucchero. «Hai fame, eh?» chiese Mary, vedendo che il cugino mangiava allegramente. «Oh, stamattina sì! Che sia quest'aria fresca! A che ora verrà Deacon?» «Non dovrebbe tardare». Erano passati circa 10 minuti quando Mary alzò una mano, accennando fuori dalla finestra. «Senti il gracchiare di questo corvo? Deve essere Fuli, senz'altro!» Rimasero in ascolto, in silenzio. «E questo belare? Questo leggero belare? Sì, è l'agnellino! Deacon deve essere qui!» Dopo un po', infatti, si sentì per i corridoi il rumore di rozzi scarponi che, malgrado ogni sforzo del proprietario, facevano un baccano infernale. «Ecco qui Deacon!» annunciò Marta dopo qualche minuto. Colin vide apparire sulla soglia un ragazzo dai capelli rossi e la larga bocca aperta in un sorriso. Teneva in braccio un agnellino, su una spalla un corvo e sull'altra uno scoiattolo. E da una tasca spuntava la testa di un altro scoiattolo. E vicino ai suoi enormi scarponi trotterellava una volpe. Colin si sedette sul divano, gli occhi fissi a queste nuove figure, con la stessa espressione che aveva avuto quando per la prima volta gli era apparsa Mary. Era meravigliato, curioso, contento. Malgrado tutte le descrizioni, quello che appariva ai suoi occhi era qualcosa di inaspettato. L'effetto che provocavano in lui tutte queste bestiole e quel ragazzo sorpassava qualsiasi previsione. Colin non aveva mai rivolto la parola ad un ragazzo della sua età e quindi questa prima esperienza lo incuriosiva e lo divertiva molto, ma lo imbarazzava anche un po', tanto che non riusciva a formulare una frase di approccio. Deacon sembrava invece molto meno impacciato e preoccupato. Pensava che anche la prima volta che si era incontrato con il corvo non era stato facile iniziare il discorso, ma dopo tutto era andato per il meglio e lo stesso sarebbe successo con questo ragazzino. Si avvicinò a Colin e senza parlare gli pose in grembo sulla vestaglia di velluto l'agnellino. Al contatto con la stoffa calda e morbida, la bestiolina cominciò a muovere la testa dando colpetti nel fianco di Colin e cercando di infilare il muso fra le pieghe della vestaglia. «Cosa fa?» chiese Colin. «Cosa cerca?» «Cerca la sua mamma!» rispose Deacon ridendo. «Non gli ho dato ancora la sua razione di latte stamattina perché pensavo che ti sarebbe piaciuto vederlo mangiare». Si inginocchiò vicino al sofà e tirò fuori dalla tasca la sua bottiglietta di latte. «Su, su!» disse posando la mano abbronzata su quella testina bianca. «Ecco dov'è quello che cerchi. Lì non trovi da sfamarti, anche se è morbido e liscio. Su, prendi questo». Spinse il ciucciotto fra le labbra avide e l'agnellino cominciò a succhiare, tutto beato. Il ghiaccio era ormai rotto e non mancavano certo gli argomenti per tener viva la conversazione. Dico raccontò come aveva trovato l'agnellino all'alba di 3 giorni prima. Stava in mezzo alla brughiera ascoltando il canto di una allodola e guardandola salire su e su nel cielo fino a diventare un puntino lontanissimo. L'avrei persa di vista se non fosse stato per il suo canto, e mentre mi chiedevo come si riuscisse ancora a sentirla, pur così lontana, quasi ai confini del mondo, ecco che ho sentito un altro rumore, molto più vicino, provenire da un cespuglio di ginestre. Era un belato, ma era così debole che ho capito subito che doveva trattarsi di un agnellino appena nato. Belava per la fame. Allora ho pensato che se aveva fame non doveva avere la sua mamma vicino, e allora mi sono messo a cercarlo. Sono andato verso quel cespuglio, ma lì non c'era nessuno. Il belato veniva da quella parte, ma da più lontano. Mi ha dato un bel da fare. Ho dovuto girare e rigirare per trovarlo, ma finalmente ho visto qualcosa biancheggiare su una roccia. Mi sono arrampicato e ho trovato il poveretto mezzo morto per il freddo e per la fame. Mentre Deacon parlava, Fuli volava fuori e dentro dalla finestra ed esprimeva gracchiando la sua approvazione o disapprovazione. Nocino e Guscio erano usciti anche loro dalla finestra e si erano arrampicati sugli alberi vicini, in modo che dai rami occhieggiavano dentro la stanza. La volpe invece si era rannicchiata ai piedi di Deacon e se ne stava tranquillamente seduta sul tappeto. Quando Deacon vide i libri di giardinaggio, cominciò a sfogliarli con grande interesse. Sapeva riconoscere tutti i fiori e li indicava con il nome dialettale, naturalmente, non con quello scientifico che invece Colin o Mary gli leggevano sotto le illustrazioni. Per esempio, questa che voi chiamate Aquileia è per noi amor nascosto, e quest'altro, Antirrhinum, è la bocca di leone, e tutte e due sono piante selvatiche che nascono spontanee dappertutto. Però quelle che si coltivano nei giardini diventano più belle e più grandi. Nel giardino, quello famoso, ce ne sono tanti di amor nascosto. Sembrano un gruppo di farfalle bianche e blu che palpitano quando la brezza li fa muovere. E io, un giorno, li vedrò, esclamò Colin. Ma certo, e facciamo presto, abbiamo già perso troppo tempo, concluse Mary parlando con estrema serietà in dialetto, nel modo più stretto che le era possibile. Capitolo 20. Invece dovettero aspettare ancora più di una settimana prima di poter porre in atto i loro progetti. La notte dopo la visita di Deacon si era levato un vento così forte che non era stato possibile uscire, neppure a Mary. Aveva continuato a soffiare per 3 giorni. Poi Colin non era stato bene a causa di un raffreddore. Fortunatamente Deacon era però venuto tutti i giorni, anche se a volte per pochi minuti, a raccontare tutto quello che accadeva nella brughiera, nei sentieri, fra i cespugli e sulle rive dei ruscelli, e così Colin non aveva avuto modo di esasperarsi per quella forzata attesa. Quante cose aveva sempre da raccontare, Deacon. Sapeva osservare tutto intorno a lui, le tane delle lontre, dei tassi e delle talpe, e specialmente i nidi degli uccelli e le gallerie scavate dai topi di campagna non avevano segreti per quel ragazzo capace di incantare gli animali con il suono della sua armonica bocca o semplicemente delle sue parole. Se trovava un guscio d'uovo, sapeva dire esattamente a quale tipo di uccello appartenesse e spesso riusciva a localizzare il nido da dove era caduto. I suoi racconti erano così dettagliati e precisi che ascoltandolo si partecipava a tutto il lavoro che avviene sottoterra, nell'aria, nell'acqua, ad opera di tutti gli esseri viventi che dividono con noi questo pianeta. Gli alberi, le piante, gli animali. Gli animali sono proprio come noi, hanno bisogno di una casa. Ma pensate, devono costruirsela da soli e ogni anno. È questo il periodo in cui devono darsi più da fare e non si riposano davvero un minuto. Ma la mente dei ragazzi era anche occupata dal pensiero di come avrebbero fatto a portare Colin nel giardino segreto senza che nessuno riuscisse a scoprire le loro avventure. Fecero piani su piani e infine decisero che la cosa migliore sarebbe stata dare ordine ai giardinieri di non trovarsi sulla strada nel momento in cui Deacon, Mary e Colin sarebbero usciti dal castello. Per le sue passeggiate esterne Colin possedeva un'altra Rolls-Royce, così scherzando chiamava le sedie a rotelle, che stazionava al pian terreno. Uno dei camerieri l'avrebbe portata nel viale e un altro avrebbe trasportato prendendolo in braccio Colin dal primo piano al viale. Poi Deacon si sarebbe incaricato di spingere la carrozzella per il viale principale fino ad arrivare a una certa svolta dove i cespugli di rododendri si facevano più folti. Da lì si poteva poi raggiungere, senza essere troppo notati, il viale esterno dove nel muro coperto di edera c'era la porta del giardino. Ogni giorno si cercava di perfezionare il piano nei minimi particolari. Colin era molto preso dal lato misterioso del progetto e pensava e ripensava a tutti gli stratagemmi possibili perché nessuno venisse a scoprire qualcosa. La gente avrebbe dovuto pensare che lui usciva con Mary e Deacon perché gli piaceva stare con loro e quindi non aveva problemi di non voler essere guardato altro. Dopo aver fatto i primi progetti, pensarono che avrebbero forse meno dato nell'occhio se non fossero usciti tanto furtivamente, il che era anche difficile dato l'aiuto che dovevano chiedere alla servitù. E se fossero arrivati, uscendo dal castello dopo aver percorso tranquillamente il viale principale, alla fontana. Lì si sarebbero fermati ad ammirare le composizioni di fiori che il capogiardiniere, Mr. Roach, aveva preparato accostando piante con fiori di varie gradazioni di colori. Comportandosi così normalmente, non avrebbero destato sospetti. Invece, una volta fatto il giro intorno all'aiuola della fontana, si sarebbero eclissati dietro i cespugli e sarebbero passati da un sentiero all'altro fino a raggiungere il muro di cinta del giardino segreto. Sembravano tre generali intenti a studiare il più complicato piano di battaglia. Tanto si infervoravano nel proporre, discutere, accettare o scartare ipotesi. Come sempre accade, però, qualcosa, era trapelato. Si parlava molto fra la servitù, non del giardino segreto, ma dei progetti di Colin di uscire all'aria aperta. Tuttavia, Mr. Roach fu molto sorpreso il giorno che fu invitato a recarsi in quelle stanze al primo piano, dove nessun estraneo aveva mai messo piede perché Colin voleva parlargli personalmente. Ma guarda un po', diceva parlando ai suoi bottoni mentre si cambiava frettolosamente la giacca. Guarda un po', cosa sarà successo a sua altezza il principe che non voleva essere visto per mandare a chiamare proprio me? La curiosità del capogiardiniere era grande. Non aveva mai avuto occasione di vedere neppure da lontano il giovane figlio del proprietario del castello. Aveva solo sentito raccontare cose tremende su di lui, sul suo sgradevole aspetto di storpio, sul suo carattere irascibile e litigioso, sulle sue crisi isteriche. Aveva sentito dire, da gente che tra l'altro non aveva mai avvicinato Colin, ma a sua volta parlava per sentito dire, che quel povero ragazzo poteva morire da un momento all'altro. Tanto era debole, tanto la sua spina dorsale era malata e tanto la sua salute era compromessa. Mrs. Medlock lo ricevette nell'ingresso e lo accompagnò su per le scale. «E le cose stanno cambiando in questa casa», gli bisbigliò. «In meglio, speriamo», rispose lui. «Beh, in peggio sarebbe impossibile. Però si deve dire che ora ognuno di noi è più sereno e svolge il suo lavoro con maggiore tranquillità». Non si sorprenda se troverà la camera da letto trasformata in una specie di serraglio e se assieme a Colin troverà anche il fratello di Martha Sowerby, quel Deacon, che sembra a suo completo agio con quelle sue bestie sul tappeto. Ma al nome di Deacon, invece di scandalizzarsi, Mr. Roach sorrise compiaciuto. Oh, quel Deacon! Oh, per lui non ci sarebbe differenza, saprebbe sentirsi a suo agio tanto a Buckingham Palace quanto in fondo a una miniera di carbone. E non perché è un impudente o uno sfacciato, è semplicemente un ragazzo senza complessi, felice di vivere, che ispira simpatia a prima vista con quel suo carattere sempre ben disposto. Con queste parole, Mr. Roach si preparò a entrare nella camera di Colin. Meno male che Mrs. Medlock gli aveva detto di non spaventarsi.